Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Quello che sentite è il grido di giustizia che si è alzato per le strade di molte città americane in questi giorni, per protestare contro la decisione del Grand Jury di Ferguson in Missouri di non incriminare il poliziotto Darren Wilson in relazione al caso dell'uccisione del giovane nero Michael Brown. Tensioni razziali che si mescolano e sovrappongono con tensioni sociali mai sopite, lungo un filo rosso che lega Ferguson alle banlieue francesi, alle periferie degradate di Roma e Milano. Quale risposta, quale contributo può arrivare in questo scenario dal mondo dello sport? Di questo ci chiedono oggi di occuparci gli idee di Olimpia e dello sport. E lo facciamo col nostro primo ospite, un grande campione, amico di Radio 24 e vecchia conoscenza del calcio italiano, dove ha vestito le maglie di Parma e Juventus prima di trasferirsi al Barcellona. 42 anni, francese, campione del mondo nel 98 proprio in Francia, campione d'Europa nel 2000, vice campione mondiale nel 2006. Lilian Thuram, grazie per essere oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Ti ringrazio. Lilian, grande ex campione, dicevamo, ma oggi soprattutto scrittore impegnato contro discriminazione e razzismo. Proprio in queste settimane esce il tuo secondo libro, edito da ADD Editore, dal significativo titolo Per l'uguaglianza. Ecco, Lilian, un libro autobiografico in cui calcio e riflessioni su vecchie e nuove discriminazioni si mescolano e si fondono, vero? Ho voluto raccontare la mia proprio esperienza di vita di un bambino che nasce in Guadalupe, che arriva a Parigi, che scopre il mondo di calcio, che ha la fortuna di diventare un calciatore professionista e dopo, per toccare, diciamo, le problematiche della società, sono andato a cercare le persone che lavorano da tanti tempo su queste problematiche, come il razzismo dovuto al colore della pelle, dice, all'omofobia. La più vecchia gerarchia fra gli uomini e le donne, diciamo, la discriminazione anche dovuto alla classe sociale, perché mi sembra che tutte queste cose sono collegate. Tanti, ahimè, gli episodi di razzismo nel mondo del calcio, me ne vengono in mente due tra i più noti. Palla dentro per Boateng, Boateng si gira, Boateng viene a giocare, Boateng, e Boateng si arrabbia. Boateng tira il pallone contro i tifosi della Propatria che lo beccano. Non si può giocare a calcio in questa maniera. Dovrebbero essere i giocatori della Propatria ad andare a parlare con i propri sostenitori. È il 3 gennaio del 2013 quando, durante l'amichevole tra Propatria e Milan a Busto Arsizio, tifosi dei padroni di casa rivolgono cori razzisti al centrocampista ghanese del Milan Kevin Prince Boateng, che per protesta calcia il pallone in tribuna, si sfila la maglia ed esce dal campo seguito da tutti i rossoneri. Da quel giorno Boateng è in prima fila contro il razzismo nel football, tanto che nel marzo 2013 è invitato dall'ONU a Ginevra come relatore in un dibattito sul tema. Per me, secondo me, è importante che tutte le squadre seguano me. Questo è un segnale fortissimo al mondo, perché questa è una malattia, perché dobbiamo battere contro questo, perché è importantissimo. Ma io ho fatto il mio segnale, questo è un segnale forte perché anche tutto il Milan, il presidente e tutta la squadra seguite me. E adesso dobbiamo lavorare anche altri presidenti e altre persone importanti. E invece il 27 aprile scorso, quando al 31esimo della ripresa di Villarreal Barcellona, con i padroni di casa in vantaggio 2-1, Dani Alves, difensore blaugrana, si appresta a battere un calcio d'angolo quando dagli spalti del Madrigal vola una banana diretta proprio verso di lui. Il brasiliano, vittima del lancio razzista, non fa una piega. Anzi, si piega, raccoglie la banana, la sbuccia e ne mangia un pezzo. Uno show che vale il prezzo del biglietto come un tunnel e un dribbling, la migliore risposta possibile ai razzisti. Lilian, abbiamo rivissuto questi due episodi. Ecco, come valuti ad esempio la risposta data da Dani Alves a quella banana dall'aspro sapore razzista? Per me non è le cose che fa o non fa Dani Alves. Per me è perché gli arbitri non hanno fatto niente. Perché i compagni, gli avversari non hanno fatto niente. Perché è troppo facile, non è che la persona che subisce è il razzismo che deve dare la risposta. Oh, ci sono altre persone che stanno lì, che stanno guardando, e sono loro che devono aiutare la persona che si fa aggredire. Si sta parlando molto in questi giorni delle banlieue francesi in rapporto a quanto sta avvenendo nelle periferie di molte città italiane, Roma, Milano, la situazione sembra fuori controllo, no? Diventa sempre più difficile in quelle aree degradate riuscire a creare un terreno comune. Ecco, sono situazioni secondo te paragonabili in qualche modo, tu che conosci sia l'Italia che la realtà francese, oppure ci sono delle differenze? La cosa che mi colpisce è perché mettono sempre i più poveri in fiambre, però se tu metti i più poveri in fiambre è sbagliato e tante volte si mandi un messaggio negativo dicendo guardate voi non siete veri italiani, non siete come noi, alla fine queste persone pensano che non sono a casa loro e tu stai creando delle persone frustrate. E questo che mi sembra che è sbagliatissimo. E dire, Liliam, che tu sei stato campione del mondo nel 98 a Parigi con la tua Francia, che fu allora anche emblema di convivenza multietnica e multiculturale. Riviviamo insieme quel mondiale con alcune testimonianze straordinarie. Dopo l'edizione del 38, nel 1998 la Coppa del Mondo torna in Francia. L'Italia sportiva brinda al successo di Pantani al Giro e la speranza che il romagnolo possa ripetersi anche al Tour de France accompagna gli azzurri oltre Alpe. A portarci ai mondiali è stato Cesare Maldini che, dopo le vittorie con l'Under 21, ha preso il posto del dimissionario Sacchi. Battiamo l'Inghilterra a Wembley, ma ai mondiali arriviamo solo dopo lo spareggio con la Russia. In Francia il trascinatore è Bobo Vieri, ma il dilemma che divide è quello tra Roberto Baggio, tornato grande nel Bologna, e Alex Del Piero, stella juventina che arriva in Francia dopo un lungo stop per infortunio. Maldini lo risolve a modo suo. Per quanto riguarda Del Piero e Baggio, assolutamente non c'era grande concorrenza, giocava chi stava meglio, però il tecnico, e allora ero io, decidevo secondo come chi si incontrava e secondo le condizioni fisiche di ognuno. Si soffre all'esordio contro il Cile di Salas e Zamorano. È 2-2 solo grazie alla freddezza di Baggio, che all'ultimo minuto insacca il rigore decisivo. Battiamo Camerun e Austria e vinciamo il girone. Negli ottavi troviamo la Norvegia ed è ancora Vieri al quinto gol nel torneo a regalarci i quarti, proprio contro la Francia padrona di casa. Il 3 luglio 1998 sfidiamo i Transalpini a Parigi. Zidane e compagni assediano Pagliuca, ma nei supplementari è Baggio a sfiorare il golden goal. Niente da fare, è 0-0, si va ai rigori. Pagliuca para il tiro di Lisarazu, ma poi rivive l'incubo del 94. Il Brasile esultai un po' troppo e probabilmente lì mi sono portato un po' la sfortuna da solo. Ecco. Ora con la faccia parai il primo rigore, sono rimasi tranquillo, calmo. E nonostante tutto questo, purtroppo sbagliamo subito dopo con Albertini e Di Biagio e andato avanti la Francia. Il tiro di Di Biagio si stampa sulla traversa. Siamo fuori dal mondiale. Una cosa comunque che mi porto dentro di me, comunque lo rifarei, riandrei sul dischetto come del resto poi ho fatto 2 anni dopo all'Europeo contro l'Olanda, però è normale che quello con l'Olanda non se lo ricorderà nessuno, il gol con l'Olanda, e quello sbaglio per forza di cose rimarrà nella memoria di tutti quanti, però bisogna andare avanti e comunque andare avanti a testa alta, penso di poterlo fare. In semifinale vanno i francesi contro la sorprendente Croazia, che ha fatto fuori la Germania. E i croati vanno in vantaggio con il capocannoniere Schuker, ma un errore di Boban lancia Thuram verso l'1-1 ed è ancora il difensore francese a siglare il 2-1 definitivo. L'amarezza del fantasista croato. Veramente ho giocato un bellissimo mondiale, c'è stato errore, una grave disattenzione mia, mi dispiace tanto, però lì c'erano, beh, sappiamo, da Zidane, Deschamps, Blanc, Zahi, Thuram, Petit, quindi erano una squadra veramente strepitosa. In finale, il 12 luglio a Parigi, la Francia affronta i campioni in carica del Brasile, che, sotto la guida di Zagallo, hanno ritrovato il tradizionale gioco offensivo, schierando insieme Rivaldo, Ronaldo e Bebeto, ma non gli equilibri cari a Parreira. In semifinale i verdeoro hanno superato ai rigori l'Olanda, poi quarta dietro alla Croazia. E a poche ore dalla finalissima Ronaldo ha un attacco di convulsioni. La testimonianza di Leonardo. Non era facile sapere cosa fare, anche perché non si capiva, è stata tutta una cosa molto difficile dentro l'albergo. Ci ha pensato che lui non doveva giocare, come credo che fosse la cosa più giusta. Lui è andato all'ospedale, ha fatto tutti i controlli, tutti l'indagine dicevano che lui non aveva nulla, che stava bene, che aveva avuto solo un calo di tensione e lui ha voluto giocare in tutti i modi, ha giocato e l'abbiamo perso. Il re di Parigi non è il brasiliano, ma Zidane, che al 27esimo infila di testa l'1-0 e a fine primo tempo concede il bis. Beh, il corner che arriva. Oui, oui. Est-ce que l'histoire va se répéter? Djorkaeff et but! Zidane! Deuxième but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane! Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Petit, nella ripresa, sigla il 3-0. Per la prima volta nella storia la Francia è campione del mondo. Liliam, quanti ricordi, per te dolci, per noi italiani un po' più amari. Ecco, quella nazionale francese divenne simbolo, dicevamo, di integrazione fra le varie anime etniche della Francia. Ma era questa la realtà, la verità? Era proprio così? Ascolta, intanto, prima di tutto, io credo che c'è un sbaglio clamoroso. Per esempio, la nazionale francese era una squadra multicolore, non era una squadra multietnica o multiculturale, perché se tu prendi la squadra italiana è una squadra multiculturale soltanto perché ogni giocatore porta una cultura differente e io credo che tante volte sbagliamo una cosa: la cultura è una cosa individuale. Non è che ci sono due italiani che pensano esattamente della stessa maniera. Diciamo che la Francia che ha vinto il 98 era all'immagine della Francia, che la Francia ha una popolazione multicolore, multireligiose e multiculturale, perché ancora una volta ognuno di noi portiamo una cultura differente. Ti toccò discutere allora anche con Jean-Marie Le Pen, no? Il leader dell'estrema destra, che disse troppi neri in questa nazionale. Sì, perché lui diceva che erano troppo neri in nazionale francese e lui gli diceva: guarda che per giocare in nazionale francese l'importante è essere francese, non di un colore o di un'altra. Liliam Thuram, mi sembra una partita ancora lunga da giocare, ma che si può vincere. In bocca al lupo per il tuo libro, Liliam, e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Volta, è stato un piacere. Ciao, ciao. Una data ci hanno suggerito gli dei di Olimpia per simboleggiare quello che è stato un momento di svolta nel rapporto tra sport e lotta alle discriminazioni e al razzismo, almeno per quanto riguarda lo sport italiano. È il 15 settembre del 2000 e lo Stadio Olimpico di Melbourne ospita la cerimonia d'apertura dei giochi della 27esima Olimpiade. Portabandiera della spedizione azzurra in Australia è, per la prima volta nella storia dello sport azzurro, un atleta di colore. Quel Carlton Myers, trascinatore della nazionale italiana di basket, che arriva proprio in Australia col titolo di campione d'Europa. Per l'Italia, pervasa già da qualche anno da flussi migratori sempre più consistenti e da pulsioni xenofobe e discriminatorie che trovano espressione politica in particolare nella Lega Nord, è uno shock che desta sorpresa e polemiche e che lo stesso Myers a quel tempo commentava così. Siamo diversi, siamo tantissime razze nel mondo, ci sono tantissime razze ed è bello per questo, impariamo a conoscerci l'un l'altro, ad amarci l'un l'altro, perché alla fine il cuore è di un unico colore. Ho sostenuto che l'Italia rispetto ad altri paesi europei è più razzista, non troppo razzista, ma più razzista. Ospite oggi di Olimpia è l'artefice di quella scelta discussa e coraggiosa. Allora era il presidente del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, oggi è al vertice proprio della Federbasket. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, Gianni Petrucci. Grazie a voi. Beh, presidente, davvero una scelta storica, quella di Myers come portabandiera azzurro. Ma fece molto discutere, se vi ricordate quella scelta, ma diciamo che fu fatta da noi con un ragionamento ben preciso. Cioè, i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi sono sempre stati campioni che hanno vinto qualcosa in passato, no? E voi lo vedete che anche altre nazioni, come poi successivamente Federer, Nadal, questi qua. Noi abbiamo voluto introdurre proprio questo criterio, in quanto era un momento particolarmente importante e storico in cui si parlava di questo argomento. E la scelta cadde per due motivi. Uno, perché mai essere un campione, come lei ha detto in premessa. Due, proprio perché era il momento particolare per far capire l'importanza che davamo noi a quegli argomenti che si stavano trattando in campo nazionale e con una persona che ben rappresentava quella multietnicità. Le polemiche, come sottolineava Presidente, davvero non mancarono allora? Ma sì, ma poi vede, ogni volta poi che uno prendeva, come oggi è di attualità, un provvedimento e si fanno sempre le solite dichiarazioni, ma non siamo razzisti, sono pochi razzisti, è inutile colpirli perché poi sono solo pochi imbecilli, no, no, assolutamente l'opposto, noi dobbiamo sempre presentare, avere ben presente a noi stessi che questo è un fenomeno che non si deve mai sottovalutare e quindi quando ci sono delle occasioni in cui si può ribadire quello che il nostro paese, quello che lo sport può fare, perché l'Olimpiade è la trasmissione più televista di tutte le altre trasmissioni nel mondo, insieme a un mondiale di calcio, anzi viene prima un'Olimpiade, e allora è dovere di un'organizzazione mondiale o di un'organizzazione nazionale come quella del CONI far presente che l'Italia è in prima fila in questa battaglia. Ecco, come lo comunicò a Myers, come l'ha presa il giocatore? Ma entusiasta, io nella mia stanza ancora adesso e ho la foto di Carlton Myers che mi dice: grazie Presidente, se non c'eri tu io non avrei mai avuto questa grande soddisfazione. In realtà non fui solo io, e devo dire la verità, fu condivisa con tutta la giunta del CONI, con tutto il Consiglio Nazionale. Poi è chiaro che qualsiasi scelta uno faccia è sempre oggetto di discussioni, ma forse c'erano atleti più rappresentativi. È chiaro che l'Italia ce n'ha tanti di grandi atleti, l'Italia è sempre stata tra le prime 10 nazioni al mondo, per cui ogni volta che si sceglie un portabandiera è oggetto di discussione, ma questa è anche la forza, e quella fu una scelta molto discussa, ma sono contento di averla fatta e la rifarei. Ancora più decise e radicali le scelte in tal senso fatte dal basket d'oltreoceano, cioè dalla NBA. Il viaggio da fare con la macchina del tempo stavolta è breve. Torniamo alla scorsa primavera. You can't be flexible, you can't. I am flexible. I understand that that's the way you were raised and that's your culture and I'm respectful. Why do you have to disrespect them? Those are... I playoff dell'NBA sono nel vivo quando viene diffuso l'audio di questa telefonata. È il proprietario dei Los Angeles Clippers, Donald Sterling, che rimprovera la sua fidanzata di essersi fatta vedere allo Staples Center, il palazzo dello sport di Clippers e Lakers, a Los Angeles, in compagnia di uomini e giocatori neri, tra cui uno dei miti del basket americano, Magic Johnson. Sterling rincara la dose, aggiungendo altre considerazioni razziste nei confronti di afroamericani e altre etnie. Lo scandalo è enorme. Molti giocatori neri dell'NBA manifestano apertamente durante le gare il loro dissenso e minacciano lo sciopero. La risposta della Lega, dopo le indagini del caso, è durissima ed affidata alle parole del commissioner Adam Silver. Effective immediately, I am banning Mr. Sterling for life from any association with the Clippers organization. Con effetto immediato, bandisco per tutta la vita Mr. Sterling da qualsiasi attività relativa ai Clippers e all'intera NBA. Mr. Sterling non potrà più assistere a nessuna partita, a nessun allenamento, né prendere parte a qualsiasi decisione relativa all'attività della franchigia e della Lega stessa. Ho inoltre deciso di sanzionare Mr. Sterling con una multa di $2,5 million, il massimo possibile secondo l'attuale regolamento dell'NBA. Allora, Presidente Petrucci, dal basket americano arriva un esempio di vera tolleranza zero contro il razzismo. Sì, ma poi vede, la realtà è che questi sport, poi negli Stati Uniti, adesso avete visto i problemi che ci hanno con i provvedimenti che proprio di questi giorni si stanno prendendo, è chiaro che il basket, il calcio, la pallavolo, la tecnica leggera sono gli sport che hanno più di 200 nazioni, 210 nazioni al mondo, più del CIO. In tutto il mondo vengono praticati, per cui è chiaro che quando discipline così internazionali prendono una decisione hanno una grande eco. In più l'NBA, sapete che probabilmente lo sport professionistico insieme al baseball, al football americano, più diffuso nel mondo e più popolare nel mondo, vi renderete conto che l'ego ovviamente è ingrandito. Guardiamo un po' nel giardino del vicino e alludo al calcio. Dopo la gaffa a sfondo razzista che quasi gli costava l'elezione, il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio ha arruolato Fiona May, ex campionessa del salto in lungo azzurro, come consigliera antidiscriminazione. Ecco, Presidente Petrucci, le chiedo, credibile secondo lei l'arruolamento di Fiona May in questo ruolo appunto così delicato? Ma senta, se fatta lavorare, sono convinto che Tavecchio la farà lavorare, perché Tavecchio è un presidente preparato, ben conosciuto io, e quindi Fiona May è un bel personaggio, un personaggio popolare, un personaggio che ha vinto tanto nello sport, un personaggio che poi ha saputo anche avere una popolarità perché è stata in televisione, perché ha girato dei film, dei documentari, e quindi è chiaro che la figura di Fiona May, una persona che ha scelto poi di diventare italiana e ha vinto con l'Italia, certamente sarà un esempio importante. Complimenti a Tavecchio perché ha fatto questa scelta. È convinto, Presidente, che in questa partita lo sport possa davvero incidere, oppure certe prese di posizione fanno notizia, certo, ma alla fine appunto non incidono più di tanto? Ma io dico che noi non possiamo ritenerci così importanti che i nostri gesti poi cambino la cultura. Noi siamo importanti perché i nostri gesti hanno un eco certamente cosmica, certamente universale, e aiutano a cambiare una cultura. Perché? Perché il grande campione è sempre quello che poi è d'esempio agli altri. Io sono uno che è sempre stato dentro le righe, non mi sono mai messo la piuma sul cappello, non ho mai fatto le battaglie, non ho mai fatto il moralista. Ecco, io i moralisti, ho paura dei moralisti, per cui tutte le battaglie che noi abbiamo fatto, tutte da presidente del CONI, quando ero al calcio, adesso dal basket, tutte le battaglie che noi le facciamo perché riteniamo di portare un nostro piccolo contributo, quello dobbiamo fare. Se tutti le facessero insieme a noi, noi vogliamo essere di esempio, ma certamente miglioreremo. Lo sport è un eco straordinario, se voi pensate a tutta la stampa sportiva, alla parte sportiva che hanno i quotidiani, e poi ripeto, un campione internazionale fa sempre notizia. Gianni Petrucci, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi per l'intervista. Per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto, grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail olimpia@radio24.it e riascoltare il programma attraverso il podcast, sempre dal nostro sito radio24.it, dove trovate anche il blog di A Bordo Campo per segnalarci storie e episodi della vita dello sport di tutti i giorni. Ora spazio a tutti i convocati weekend. Olimpia torna come sempre domenica prossima alle 16:30. Ancora una buona domenica a tutti.